Avec son flic, Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Non fate gli scongiuri, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ma in questa puntata vi parleremo di un argomento poco piacevole: la fine della vita, il dopo, quello che una volta si chiamava l'oltretomba. Di questi tempi si discute molto di testamento biologico, ma le nostre volontà forse dovrebbero riguardare anche la nostra second life, cioè la nostra esistenza su internet, che sta diventando sempre più importante. Un tempo, quando qualcuno passava a miglior vita, si andava a frugare nei cassetti del defunto alla ricerca di carteggi segreti. Adesso ognuno di noi si lascia alle spalle una scia infinita di email, di post su Facebook, di indirizzi e numeri di telefono memorizzati sul palmare. Cosa fare di questa immensa massa di dati, di questa specie di testamento virtuale? Fino a che punto gli eredi hanno diritto di curiosare in questi dati e invece quanto dovrebbero distruggerli? È uno degli argomenti che tratteremo in questa puntata della finestra sul cortile, ma parleremo anche del Dalai Lama e di altri temi che ora verranno anticipati nel nostro sommario. Tibet, il Dalai Lama è veramente un esempio di santità? Inghilterra, un'eredità di 400.000 sterline. Un ex soldato nazista si sdebita così con il paese scozzese, dove è stato prigioniero durante la Seconda Guerra Mondiale. Germania, immortalità virtuale. Che ne sarà della nostra seconda vita sul web quando andremo all'altro mondo? Svizzera, 3.000 metri sopra al mare. La nuova capanna sul Monte Rosa è ecocompatibile e reinterpreta in chiave high-tech la tradizione dei rifugi alpini. È very political monk, un monaco molto politico. È il titolo di un articolo di Sholto Burns sul New Statesman. Sholto Burns è il vice direttore del settimanale inglese, che è noto, insomma, per le sue tendenze e le sue nobili tradizioni laburiste. Ed è curioso che proprio un settimanale, diciamo, di sinistra se la prenda con un'icona del progressismo internazionale come il Dalai Lama. La domanda è: perché pensiamo che il Dalai Lama sia un santo vivente? Dice Burns, la settimana prossima, domenica prossima, il Dalai Lama e Desmond Tutu saranno insigniti del Fetzer Prize, il premio Fetzer per l'amore e il perdono, al Peace Summit di Vancouver. Dice: ammetto che non avevo mai sentito parlare di questo premio, ma è di ben $100.000. Il Fetzer Institute è basato il quartier generale nella città di Kalamazoo, nello stato del Michigan, e questa città è nota più che altro per una canzone degli anni 40 resa celebre dall'orchestra di Glenn Miller. Sholto Burns dice: ma io sono contento che diano il premio all'arcivescovo Tutu, che oltre a essere una persona straordinariamente allegra e compassionevole, anche un barometro morale molto accurato. Per esempio, è uno che ha preso posizione contro Robert Mugabe. Il Dalai Lama invece dice: non sono tanto convinto, perché dice è un personaggio più hollywoodiano, è uno che così viene adorato da tutti i divi del mondo che si vogliono far fotografare così in sua compagnia. È una specie di Madonna pellegrina che viene portata in giro dai progressisti di tutto il mondo, mentre in realtà, scrive Burns, la sua posizione, anche le sue iniziative politiche spesso sono inopportune. Dice che per esempio ha visitato l'isola di Taiwan dopo che era stata colpita da un tifone. A novembre andrà nel del monastero di Tawang nel Arunachal Pradesh, una regione che la Cina considera sud del Tibet e verso la quale ha delle rivendicazioni territoriali. In pratica, insomma, questa visita verrà interpretata dalle autorità cinesi come una provocazione. Quindi dice, scrive Burns, bisogna stare attenti a santificarlo. In realtà questo monaco è più che altro un agitatore, un leader politico che persegue i suoi scopi, spesso senza pensare alle conseguenze sulle popolazioni del suo Tibet. Ma intanto abbiamo al telefono un ospite al quale diamo il benvenuto, Raimondo Bultrini, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. È Raimondo Bultrini, giornalista, scrittore, autore tra l'altro di un romanzo fantapolitico, Il demone e il Dalai Lama per l'appunto, ed è un esperto di sud-est asiatico che scrive per il gruppo Espresso Repubblica e è anche autore di documentari sempre sull'Asia e tra l'altro e vive in Thailandia, quindi è un conoscitore e conosce molto bene il Dalai Lama, vero? Sì, l'ho incontrato diverse volte anche per il mio libro. Certo. Ma questo ritratto che esce fuori dall'articolo di Burns, secondo te è sensato oppure è un attacco che tu non condividi? Mi sembra di aver capito che si sia offeso questo giornalista perché il Dalai Lama gli ha fatto una battuta sullo stomaco, ha detto che lui sembra che ce ne abbia due di stomaci, parlando della fame nel mondo e degli stomaci troppo appetiti, quindi diciamo degli occidentali troppo ingordi, insomma, sì. Troppo ingordi, ma intendendo ovviamente non soltanto il cibo. Quello che mi pare di aver capito è che appunto ci sia un astio che magari nasce anche da altre cose. Ora, non dimentichiamo che il Dalai Lama è stato sottoposto a diverse critiche, non solo diciamo da un'area di laici, un po' snob magari, che lo accusano appunto di essere un politicante, un politico più che un leader spirituale, e dall'altra poi ci sono anche accuse religiose proprio da parte degli stessi appartenenti alla scuola Gelupa, che è quella dei berretti gialli alla quale appartiene il Dalai Lama, ed è l'oggetto un po' di questo libro che ho scritto, che certo. Fanta religione basato tutto su fatti veri e purtroppo drammaticamente veri, come un triplice delitto per esempio. Ora, però, sì, infatti lo spunto, ecco, io non ho avuto tempo di raccontare quello che è il tuo libro, ma insomma, sostanzialmente parte da un fatto di cronaca vero, insomma. Un fatto di cronaca nera. Ora però, che il Dalai Lama venga accusato di essere un politico, si può rispondere. Lui sta lavorando per il suo popolo, cioè, nel senso, lui promuove i diritti umani del popolo tibetano e quindi fa politica, perché la politica diventa uno strumento di salvezza, se è possibile, di una cultura, di una tradizione che altrimenti sarebbe andata persa, distrutta. Sì, quindi la politica non è una brutta parola, insomma, può avere anche degli scopi nobili. Certamente, poi soprattutto considerando che diciamo il principio che lo ispira è questo, che poi i suoi comportamenti siano giudicati efficaci o meno, questo è un altro discorso. Le critiche vengono anche dall'interno, vengono anche dagli stessi tibetani, vengono anche dagli intellettuali occidentali che magari sono simpatizzanti della causa tibetana. Qualcuno dice la linea di mezzo, cioè appunto non contro la Cina, non a favore quindi dell'autonomia invece dell'indipendenza. Queste critiche sono ormai anni che vanno avanti e ha sempre risposto la completa indipendenza è follia, quantomeno cerchiamo almeno di accontentarci di un'autonomia che nemmeno viene data, voglio dire, cioè nemmeno l'autonomia è assolutamente ipotizzabile con il regime cinese di oggi. Quindi tutto questo mi sembra, appunto, sì, si può criticare, certamente è giusto farlo. Quando si passa all'offesa, che si dice appunto il monaco con le, come diceva Murdoch, il monaco con le tozze, oppure che ne so io, il monaco politicante, eccetera. Vediamo il nostro Papa, certamente non è che è privo di, no, interessi politici, nel senso che spesso si occupa di politica, parla di politica. Sì, i capi religiosi alla fine poi fanno politica, insomma, giustamente. Ma lì è un gruppo religioso. Certo, ecco, ma tra le critiche che gli fa il New Statesman c'è anche il fatto, si dice, che prima dell'occupazione cinese in realtà i pastori, i contadini del Tibet erano schiavi dei lama, quindi c'era una sorta di teocrazia, quindi alla fine poi dice non è che stessero così bene. Sì, è vero, certamente era un periodo, cioè, c'era una situazione quasi medievale in qualche modo. Certo. Però voglio dire, quello era il loro modo di vivere, come lo era da noi, insomma, per tanto tempo. Ma consideriamo una cosa, i cinesi stessi, per esempio, che sono ovviamente i maggiori accusatori del regime teocratico tibetano, diciamo appunto di aver liberati da questa schiavitù, che è vero in qualche misura. Però consideriamo una cosa. I cinesi dicono sempre, allora, da quando il Partito Comunista è al potere ci sono, sai, che l'economia è cresciuta nel 2000 per 1000, cioè, però chi ci dice che se ci fosse stato Sun Yat-sen o comunque, no, voglio dire, il regime nazionalista... La storia non si fa con i sé, infatti. Chi ci dice che il Dalai Lama non avrebbe modernizzato come dice di aver voluto fare, voglio certo, dire, no, tra l'altro. Non c'è dubbio. Il paese è aperto, il paese all'Occidente prima della Cina e senza tutto quello che c'è dietro, voglio dire. Grazie, quindi, Bultrini, buon lavoro e a presto. Anche a voi, grazie. Anche le SS hanno un cuore. Leggiamo sull'Independent che un ex prigioniero di guerra tedesco di 85 anni, Heinrich Steinmeier, ha deciso di lasciare in eredità 400.000 sterline al piccolo paese del Perthshire in Scozia, dove fu prigioniero di guerra durante l'ultima guerra mondiale. Dice: sono sempre stato trattato molto affettuosamente, amichevolmente dalla popolazione locale, quindi voglio mostrare la mia riconoscenza. Forse noi italiani potremmo domandarci se c'è ancora qualche ex soldato tedesco ancora in vita disposto magari a lasciare un po' di soldi a Marzabotto. La finestra sul cortile. Ormai facciamo tutti parte di qualche social network, di qualche comunità virtuale, e allora tra i soci, tra gli amici di questo network non poteva mancare una presenza che forse non ci è molto gradita, ma che purtroppo fa parte del nostro orizzonte di umani, e cioè la morte. E ce lo ricorda un articolo della Süddeutsche Zeitung che si interroga su che cosa accadrà di noi e delle nostre spoglie virtuali quando non saremo più su questa terra. Rimarremo ancora in Facebook? Rimarrà una grande scia di email? E cosa ne sarà dei nostri indirizzari sul nostro palmare? Tutti questi dati memorizzati potranno essere accessibili ai nostri eredi o bisognerà tutelare la privacy del defunto? Per esempio, un sito come Facebook di regola non concede ai parenti del defunto l'accesso alla sua password. D'altronde, salvo espressa dichiarazione scritta, come si può essere certi che chi se n'è andato avrebbe voluto dischiudere ai genitori o alla fidanzata o alla moglie la propria vita virtuale, comprese le foto compromettenti o i messaggi così un po' segreti che gli è capitato di inviare? Al riguardo il diritto non dà ancora alcuna certezza. In realtà la morte è presente poi in mille modi nel mondo virtuale. Pensiamo ai videogiochi in cui si ammazzano gli avversari, i link che rimandano a pagine morte, pensiamo ai contatti memorizzati nelle nostre agende in cui ci sono persone che non chiamiamo mai o che se ne sono andate. Ecco, ma cosa succede quando un utente internet muore davvero? Dare uno sguardo ai suoi dati aiuterebbe i familiari a elaborare il lutto? Oppure si scoprirebbero gli altarini del defunto? Negli Stati Uniti e in Germania, ci rivela la Süddeutsche Zeitung, esistono delle ditte specializzate che si occupano in vario modo di organizzare il lascito virtuale del defunto. Addirittura ci sono dei cimiteri virtuali come unserelibsten.de, dove si tributa al defunto il proprio ricordo virtuale, come andare, insomma, sulla tomba, ma sul web. Intanto ci ha raggiunto al telefono il nostro ospite, al quale diamo il benvenuto, Maurizio Ferraris, grazie di essere qui con noi. Eccomi qua. Maurizio Ferraris. Attualmente, insomma. Appunto, c'è soltanto il tuo avatar, diciamo. Ecco, ci diamo del tu perché Maurizio è un collaboratore delle pagine domenicali del Sole 24 Ore. Ecco, ma cosa dici di questa problematica, insomma, oltre al testamento biologico dovremmo fare anche un testamento informatico, un cibertestamento, occuparci anche delle volontà della nostra vita sul web? Ma molto probabilmente sì, perché questo è un problema che è emerso ovviamente solo negli ultimi anni, spesso anche in relazione ad eventi, per esempio i soldati militari americani in Iraq o nelle altre parti del mondo, alcuni di loro purtroppo morivano e l'accesso ai siti web, alla posta eccetera è permesso soltanto per chi ha la password, e normalmente questi siti web dopo 3 mesi che non vengono utilizzati annullano tutto, quindi sparisce tutto. Allora di qui sono nate queste organizzazioni per cui tu dai all'organizzazione l'autorizzazione a trasmettere l'accesso a tutti i tuoi dati web ai tuoi parenti, dando questa specie di eredità informatica. Certo. Ovviamente lì appunto si dice sappiamo che cosa succede, poi non sappiamo, visto che tutto è anche abbastanza effimero nel web, quanto possono durare queste organizzazioni a loro volta, nel senso che tutto sommato la carta o la pietra o tutto ciò che è legato al funerario dura tanto, mentre il web è ubiquo, però in un certo senso è anche effimero, nel senso che poi magari quanto dureranno tutte queste cose? Ah certo. In questi giorni si fa, a proposito di presenze virtuali di defunti, si fa un gran discutere di questo spot in cui compare Mai Buongiorno, che purtroppo ci ha lasciato, e così simpaticamente viene evocato con Fiorello. Tu come giudichi questo spot? Perché molti l'hanno trovato irriguardoso nei confronti di un defunto. Ma io non lo considero particolarmente riguardoso, io lo considero impressionante, ma questo è un altro discorso, nel senso che mette alla luce quella che, a usare delle parole un po' pompose, sarebbe l'essenza fantasmatica della tecnica, ossia il fatto che la tecnica e soprattutto queste tecniche moderne di riproduzione che si sono affermate nell'arco dell'ultimo secolo e via via sempre più fino appunto ai nostri siti web, è una possibilità di ripetizione indefinita. Quindi nel momento in cui tu hai una persona morta che riappare come se fosse viva, e in fondo nel caso di Mai Buongiorno questo è particolarmente evidente, sia perché è scomparso da poco, non è Cary Grant, sia perché in fondo fa questo gioco dell'essere vivo e quasi simulando che invece lo scomparso è per esempio Fiorello, quindi c'è un gioco che era stato pensato ovviamente prima che Mike Buongiorno morisse, ma che adesso dà questo effetto fantasmatico che effettivamente è impressionante, fa riflettere, perché poi se noi, lasciando questo caso, andassimo a vedere, ci facciamo un giro su YouTube per esempio, e lì abbiamo questa fantasmagoria di immagini di persone scomparse da chissà certo. quanto tempo, e così, cioè questa enorme galleria virtuale di cui appunto, diciamo, il caso immagine di Mike, la punta emersa dell'iceberg, però di fatto quando noi guardiamo la televisione tantissime cose che vediamo sono fantasmi. Ecco, appunto, diciamo che mentre gli uomini dello spettacolo in qualche maniera sono immortalati, no? Insomma, non muoiono mai, con YouTube questa immortalità diventa più democratica, possiamo tutti quanti... E io credo che quando, cioè in fondo della famosa battuta di Andy Warhol, un altro studioso dei media, secondo cui a un certo punto ognuno di noi avrà 15 minuti di notorietà, si può dire che ognuno di noi avrà questi 5 minuti di immortalità che viene garantita dal fatto che oramai con tutte queste immagini che vengono prese, dai telefonini, da qualunque cosa, sempre uno viene ripreso accidentalmente o necessariamente, questo poi dopo finisce su web e alimenta di fatto questi grandi cimiteri virtuali. Faccio notare che accanto alla notizia dell'accesso a questi, diciamo così, a queste eredità virtuali di cui parlava la Süddeutsche Zeitung, c'è anche la notizia di questi giorni di questo dipendente, sì, della Microsoft, che ha registrato sistematicamente tutto quello che lo riguarda, comprese immagini, email, ogni singolo giorno della sua vita, perché ormai appunto con un telefonino e qualche altro apparato tutto questo è possibile, degli ultimi 10 anni. In questo modo ha creato insomma come una specie di lascito virtuale per i suoi eredi, insomma, no? Sì, ha consegnato la sua vita. Bene, noi ringraziamo Maurizio Ferraris, a presto. Sono io che ringrazio, arrivederci. E adesso andiamo in Svizzera, per la precisione a Zermatt, dove è stata celebrata una festa in quota. Il Club Alpino Svizzero ha inaugurato sabato scorso la nuova capanna sul Monte Rosa. Il rifugio, nato dalla collaborazione di studenti e professori dell'Istituto di Tecnologia di Zurigo, ha comportato numerose sfide tecniche e ambientali, perché non è stato costruito sulle fondamenta dell'edificio preesistente. La nuova capanna si sviluppa su 3 piani, è ricoperta da superfici riflettenti e genera autonomamente il 90% del proprio fabbisogno energetico, producendo solo 1/3 delle emissioni di quella vecchia. Per questi motivi, questa capanna, oltre a garantire un comfort finora sconosciuto a 3.000 metri, è anche un laboratorio sperimentale per lo studio dell'edilizia sostenibile nell'arco alpino. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.